ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Eti Illesum. Traduzione di Chiara Passanti. Si deve avere la forza di soffrire da soli e di non pesare sugli altri con le proprie paure e i propri fardelli. Lo dobbiamo ancora imparare e ci si dovrebbe reciprocamente educare a ciò, se possibile con la dolcezza o altrimenti con la severità. Quando dico, in un modo o nell'altro ho chiuso i conti con la vita, non è per rassegnazione. Tutto quel che si dice è malinteso. Se mi capita di dire una cosa del genere, viene intesa altrimenti. Non è rassegnazione, non lo è di certo. Cosa voglio dire? Forse che ho già vissuto questa vita 1000 volte? E altrettante volte sono morta? E dunque non può più succedere nulla di nuovo? È un modo di essere blasé? No. È un vivere la vita 1000 volte, minuto per minuto, e anche un lasciare spazio al dolore. Spazio che non può essere piccolo oggi. E fa poi gran differenza se in un secolo è l'Inquisizione a far soffrire gli uomini e la guerra e i pogrom in un altro? Assurdo, come dicono loro? Il dolore ha sempre preteso il suo posto e i suoi diritti in una forma o nell'altra. Quel che conta è il modo con cui lo si sopporta e se si è in grado di integrarlo nella propria vita e insieme di accettare ugualmente la vita. Sto teorizzando dietro la mia scrivania, dove ogni libro mi circonda con la sua familiarità e con quel gelsomino là fuori? È solo teoria? Non ancora messa alla prova da nessuna pratica, non lo credo più. Tra poco sarò messa di fronte alle estreme conseguenze. Le nostre conversazioni sono già infarcite di frasi come «Spero che possa ancora godere di queste fragole con noi». So che Misha, col suo corpo delicato, sta per recarsi a piedi alla stazione centrale. Penso ai visini pallidi di Miriam e Renate, alle preoccupazioni di molti. So tutto, tutto, in ogni momento. A volte devo chinare il capo sotto il gran peso che ho sulla nuca e allora sento il bisogno di congiungere le mani, quasi in un gesto automatico, e così potrei rimanere seduta per ore. So tutto. Sono in grado di sopportare tutto, sempre meglio, e insieme sono certa che la vita è bellissima, degna di essere vissuta, è ricca di significato, malgrado tutto. Il che non vuol dire che uno sia sempre nello stato d'animo più elevato e pieno di fede. Si può essere stanchi come cani dopo aver fatto una lunga camminata, una lunga coda, ma anche questo fa parte della vita. E dentro di te c'è qualcosa che non ti abbandonerà mai più. 3 luglio 1942, venerdì sera. 8:30. Sono sempre seduta alla medesima scrivania, ma a questo punto dovrei tirare una riga e proseguire su un tono diverso. Dobbiamo trovare posto per una nuova certezza. Vogliono la nostra fine e il nostro annientamento. Non possiamo più farci nessuna illusione al riguardo. Dobbiamo accettare la realtà per continuare a vivere. Oggi, per la prima volta, sono stata presa da un gran scoraggiamento. Mi toccherà fare i conti anche con questo d'ora in poi. E se dobbiamo andare all'inferno, che sia con la maggior grazia possibile. Però non avevo mai voluto parlarne in modo così esplicito. Perché questo stato d'animo, proprio ora? Perché ho una vescica al piede a forza di camminare per la città così calda? Perché tanti hanno i piedi distrutti da quando gli è stato proibito di prendere il tram? Per il pallido visetto di Renate, che deve andare a scuola a piedi con le sue gambette corte, un'ora all'andata e un'ora al ritorno nel caldo? Perché Liesel fa la coda e non riesce ugualmente a procurarsi le verdure? Per tante e tante ragioni, piccole in sé, ma tutte parti della gran campagna che è in atto per sterminarci. E tutto il resto appare semplicemente grottesco e inconcepibile, per ora. Ad esempio il fatto che S non possa più visitare questa casa, col suo pianoforte e coi suoi libri, o che io non possa più andare a casa di Tide, eccetera. Bene, io accetto questa nuova certezza. Vogliono il nostro totale annientamento. Ora lo so. Non darò più fastidio con le mie paure. Non sarò amareggiata se altri non capiranno cos'è in gioco per noi ebrei. Una sicurezza non sarà corrosa o indebolita dall'altra. Continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia. La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi stenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me come un unico potente insieme e come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio, così, per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per poterlo fare e se questo non mi sarà concesso, bene, allora qualcun altro lo farà al posto mio, continuerà la mia vita dove essa è rimasta interrotta. Ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima convinzione, sino all'ultimo respiro. Allora il mio successore non dovrà più ricominciare tutto da capo e con tanta fatica. Non è anche questa un'azione per i posteri? L'amico ebreo di Bernard mi aveva fatto chiedere, dopo le ultime ordinanze, se non trovavo ancora che dovessero essere ammazzati tutti e preferibilmente tagliati a pezzetti, uno per uno. 3 luglio 1942. È vero, ci portiamo dentro proprio tutto, Dio e il cielo e l'inferno e la terra e la vita e la morte e i secoli, tanti secoli. Uno scenario, una rappresentazione mutevole delle circostanze esteriori, ma abbiamo tutto in noi stessi. E queste circostanze non possono essere mai così determinanti, perché esisteranno sempre delle circostanze buone e cattive che dovranno essere accettate, il che non impedisce poi che uno si dedichi a migliorare quelle cattive. Però si deve sapere per quali motivi si lotta e si deve cominciare da noi stessi, ogni giorno da capo. Una volta mi sentivo in dovere di concepire molti pensieri geniali al giorno. Ora mi sento non di rado come una terra incolta su cui non cresce assolutamente niente, ma su cui si stende un cielo alto e tranquillo. Meglio così. In questo momento non mi fiderei di troppi pensieri brillanti. A volte preferisco lasciar riposare la testa e attendere. Tante cose sono successe dentro di me in questi ultimi giorni. Ora, finalmente, qualcosa si è cristallizzato. Ho guardato in faccia la nostra misera fine, che è già cominciata nei piccoli fatti quotidiani, e la coscienza di questa possibilità fa ormai parte del mio modo di sentire la vita, senza fiaccarlo. Non sono amareggiata o in rivolta, non sono neppure più scoraggiata e tantomeno rassegnata. Continuo, indisturbata, a crescere di giorno in giorno, pur avendo quella possibilità dinanzi agli occhi. Non giocherò più con le parole che creano soltanto malintesi. Per esempio, ho chiuso i conti con la vita, non può più succedermi niente. Non si tratta di me e della mia distruzione, ma del fatto che si distrugga. Così dico qualche volta agli altri, ma non ha molto senso, né riesco a spiegarmi. Ne importa, del resto. Con aver chiuso i conti con la vita, voglio dire che la possibilità della morte si è perfettamente integrata nella mia vita. Questa è come resa più ampia da quella, dall'affrontare ed accettare la fine come parte di sé. E dunque non si tratta, per così dire, di offrire un pezzetto di vita alla morte perché si teme o si rifiuta quest'ultima. La vita che ci rimarrebbe allora sarebbe ridotta a un ben misero frammento. Sembra quasi un paradosso. Se si esclude la morte, non si ha mai una vita completa. E se la si accetta nella propria vita, si amplia e si arricchisce quest'ultima. È la prima volta che ho da confrontarmi con la morte. Non ho mai saputo bene come comportarmi con lei. Sono vergine nei suoi confronti. Non ho mai visto una persona morta. Che strano. In questo mondo disseminato di milioni di cadaveri, io, a 28 anni, non ne ho ancora visto uno. Qualche volta mi sono chiesta quale fosse il mio atteggiamento nei confronti della morte. In realtà non me ne sono mai preoccupata per me stessa. Non era ancora il momento. E ora la morte è qui, in tutta la sua grandezza. E già è come una vecchia conoscenza che fa parte della vita e che si deve accettare. È tutto così semplice. Non c'è bisogno di fare profonde considerazioni. D'un tratto la morte, grande, semplice e naturale, è entrata quasi tacitamente a far parte della mia vita. E adesso io so che appartiene alla vita. Ecco, ora posso dormire in pace. Sono le 10 di sera. Oggi non ho combinato molto, ma avevo da fare i conti con i miei piedi pieni di vesciche, dopo quei lunghi giri per la città tanto calda, e con altre piccole miserie simili. Ogni cosa doveva essere sofferta e accettata. A un certo punto mi ha preso un gran scoraggiamento e insicurezza e sono passato un momento da lui. Aveva mal di testa ed era preoccupato. In genere tutto funziona alla perfezione in quel corpo robusto. Sono stata un momento fra le sue braccia ed era così dolce e caro, quasi malinconico. Credo che per noi cominci una fase nuova, ancora più seria, intensa e concentrata sulle cose essenziali. Ogni giorno ci si libera di qualche piccolezza. Il nostro annientamento è vicino, non possiamo più illuderci. Domani notte dormirò nel letto di Dicky. Essie dormirà al piano di sotto e alla mattina verrà su a svegliarmi. Tutto questo è ancora possibile. E sapremo ben trovare il modo di aiutarci reciprocamente nei tempi difficili che verranno. Un po' più tardi. E se anche non avessi avuto niente da questa giornata, neppure da ultimo questo positivo e aperto confrontarmi con la morte, non dovrei dimenticare quel soldato tedesco Kascher che si trovava al chiosco col suo sacco di carote cavolfiori. Prima, sul tram, le aveva messo in mano un biglietto e poi c'era stata quella lettera che dovrò ben leggere una volta. Gli ricordava tanto la figlia di un rabbino che lui aveva potuto ancora assistere giorno e notte sul suo letto di morte. E stasera è andato a farle visita. E quando Liesel me l'ha raccontato, ho saputo all'istante che stasera avrei dovuto pregare anche per quel soldato tedesco. Una delle tante uniformi ha ora un volto. Ci saranno ancora altri volti su cui potremo leggere e capire qualcosa. E questo soldato soffre anche lui. Non ci sono confini tra gli uomini sofferenti, si patisce sempre da una parte e dall'altra e si deve pregare per tutti. Buonanotte. Da ieri, di colpo, ho molti anni di più. So che la mia vita ha un termine. Non sono più scoraggiata, mi sento più forte. Si diventa più forti se si impara a conoscere e ad accettare le proprie forze e le proprie insufficienze. È tutto così semplice e sempre più evidente per me. Vorrei vivere abbastanza a lungo per farlo capire anche agli altri. E ora, per davvero, buonanotte. Sabato mattina, le 9. Mi sembra che in me si compiano dei grandi cambiamenti e credo che siano qualcosa di più che semplici stati d'animo. Ieri mi si è schiusa davanti una nuova prospettiva, se prospettiva la si vuol chiamare. Stamattina ero di nuovo tranquilla e serena e sicura, come non lo ero da tempo. E tutto questo è successo grazie a quella piccola vescica sotto il piede sinistro. Il mio corpo è un ricettacolo di molti dolori. Sono custoditi in tutti gli angoli e ora gli uni, ora gli altri si fanno sentire. Mi sono riconciliata anche con loro. E sono stupita di come riesco a lavorare e a concentrarmi. Ma la forza spirituale non basterà se la nostra situazione dovesse aggravarsi. Me l'ha insegnato quella semplice passeggiata per andare e tornare dall'ufficio delle imposte. Eravamo come due allegri turisti che se ne vanno a spasso per una città bella e ridente. La sua mano aveva preso la mia e stavano così bene insieme le nostre due mani. A un certo momento mi ha preso una gran stanchezza e mi sono resa conto con sconcerto che in questa città, dalle lunghe vie, non avrei potuto sedermi in un tram o sostare per un momento in un caffè all'aperto. Posso raccontargli qualcosa di molti caffè. Ecco, là ero seduta 2 anni fa con tanti amici dopo il mio esame di laurea. E allora ho pensato, o piuttosto in qualche modo ho sentito, che gli uomini si sono stancati e si sono rotti i piedi su questa terra di Dio per secoli e secoli, nel freddo e nel caldo, che anche questo fa parte della vita. Un barlume d'eternità filtra sempre più nelle mie piccole azioni e percezioni quotidiane. Io non sono sola nella mia stanchezza, malattia, tristezza o paura, ma sono insieme con milioni di persone di tanti secoli. Anche questo fa parte della vita, che è pur bella e ricca di significato nella sua assurdità, se vi si fa posto per tutto e se la si sente come un'unità indivisibile. Così, in un modo o nell'altro, la vita diventa un insieme compiuto, ma si fa veramente assurda non appena se ne accetta o rifiuta una parte a piacere, proprio perché essa perde allora la sua globalità e diventa tutta quanta arbitraria. Al ritorno dal nostro lungo giro ci aspettava una camera fidata, con un divano su cui potevamo buttarci dopo esserci tolti le scarpe. Trovavamo un'accoglienza generosa e c'era anche un cesto di ciliegie, mandato da amici. Una volta un buon pranzo sarebbe stato del tutto naturale, ora è un regalo inaspettato. E se da un lato la vita si è fatta più dura e minacciosa, dall'altro lato si è fatta più ricca, perché non si hanno più pretese e ogni cosa buona diventa appunto un dono insperato che riempie di riconoscenza. Perlomeno io sento così e lui pure. E certe volte ci meravigliamo ambedue di non provare nessun odio o indignazione o amarezza. In mezzo alla gente queste cose non si possono più dire. Credo che finiremo per trovarci terribilmente isolati nelle nostre convinzioni. Mentre camminavo, io sapevo che alla fine avremmo trovato una casa sicura. Ma sapevo pure che un giorno questa sicurezza non l'avremo più. E allora si girerà per le strade per finire in una baracca a corsie. Lo sapevo per me e per gli altri e l'ho accettato. Ho imparato un'altra lezione da quella camminata. Dopo 2 ore avevo già un mal di capo terribile, come se la testa mi scoppiasse in tutte le sue suture. E i miei piedi erano ridotti al punto da chiedermi come avrei mai potuto camminare di nuovo. E le molte aspirine che ho preso, pensavo fosse necessario per non dovermi mettere subito a letto, ma non dovrei abituarmi a sopportare i miei mali senza rimedi artificiali, mi hanno fatta sentire instupidita e avvelenata per tutto il giorno seguente. Per me stessa non era affatto grave. Neanche per un istante, la mia vita non era meno bella e intensa per questo, ma dovevo pur constatare oggettivamente: cara mia, non ce la fai. Il tuo corpo è del tutto privo di difese e se tu fossi in un campo di lavoro dovresti arrenderti dopo 3 giorni. E tutta la forza spirituale di questo mondo non ti potrà salvare se dopo una piacevole passeggiata di neanche 2 ore, fatta con la prospettiva di avere alla fine tutte le comodità, reagisci già con un mal di capo così forte e tanta stanchezza. Per me, personalmente, non è grave. Io mi sdraio per terra e mi arrendo e poi è finita. E con ciò loderò ancora Dio e la vita. Perlomeno, in questo momento io sento così. Ma ero di nuovo triste e preoccupata all'idea di pesare sugli altri, di rendere la loro vita ancora più difficile. Una volta non facevo mai vedere se mi stancavo troppo per le mie forze. Non volevo pesare, facevo tutto come gli altri, passeggiate, festeggiamenti, le ore piccole. Forse c'era un po' di presunzione nel mio atteggiamento. la paura di perdere la simpatia e la compagnia degli altri se avessi disturbato i loro divertimenti con la mia stanchezza. Uno dei miei complessi di inferiorità nasceva di lì. Per di più, essa aveva combinato di andare domattina al ghetto, dove forse in qualche casa possiamo dare una mano, e il ghetto è molto più lontano dell'ufficio delle imposte. Fino a ieri sera non ho osato dirgli che non potevo camminare così tanto. Sapevo infatti che sarebbe stata una distrazione per lui. Devo aver pensato che se Tide era in grado di camminare con lui per ore e ore, allora potevo farlo anch'io. Sempre quella paura infantile di perdere un po' dell'amore degli altri se non ci si adegua. Ma incomincio a liberarmi da questi condizionamenti. Bisogna pur saper riconoscere le proprie insufficienze, anche quelle fisiche. Bisogna saper accettare di non poter essere per un altro come si vorrebbe. Riconoscere le proprie debolezze non significa lamentarsene, questa sì che sarebbe una miseria anche per gli altri. Credo che sia stato proprio questo nuovo stato d'animo a farmi correre da lui ieri sera, poco prima delle 8. Ho disdetto persino una lezione, cosa che è contraria alle mie abitudini, per poter stare un momento con lui. E mentre gli ero distesa accanto sul divano, gli ho detto, di punto in bianco, che mi rattristava moltissimo di essere così stanca dopo quella camminata, non per me stessa, ma perché mi ero resa conto di quante poche illusioni io mi potessi fare sulle mie reali condizioni fisiche. E lui ha subito risposto, come se fosse la cosa più naturale del mondo, che allora sarebbe stato molto meglio non fare quel giro domenica mattina. Al che ho suggerito a mia volta di portare a mano la mia bicicletta per poterla avere al ritorno. Sembra una piccolezza, ma per me è importantissimo. Altrimenti sarei stata capace di rovinarmi i piedi solo per fargli piacere e per evitare in tutti i modi di seccarlo. Chiaro che tutte queste supposizioni erano il frutto della mia fantasia. Adesso io dico con semplicità e naturalezza, ecco, le mie forze arrivano fin qui e non oltre. Non ci posso far niente, devi prendermi come sono. Per me questo è un passo ulteriore verso una maturità e indipendenza a cui sembra che mi stia avvicinando di giorno in giorno. Molti di coloro che oggi si indignano per certe ingiustizie, a ben guardare, si indignano solo perché quelle ingiustizie toccano proprio a loro. Quindi non è un'indignazione veramente radicata e profonda. In un campo di lavoro so che morirei in 3 giorni. Mi coricherei, morirei, eppure non troverei ingiusta la vita. A fine mattina. Ogni camicia pulita che puoi ancora indossare è quasi una festa. E così pure se ti lavi con un sapone profumato, in un bagno che è tutto tuo per quella mezz'ora. È proprio come se io mi stessi già congedando da queste raffinatezze della civiltà. E se un giorno non potrò più goderne, saprò in ogni caso che esistono e che possono rendere piacevole la vita e in quanto tali le loderò anche se non mi saranno toccate in sorte. Quel che conta, infatti, non è che tocchino proprio a me, vero? Bisogna saper accettare tutto quel che ci tocca. Anche se un individuo, nei panni del tuo prossimo, ti si accosta all'uscita da una farmacia dove hai comprato un dentifricio, ti punta l'indice addosso e ti chiede con aria inquisitoria: «Hai il permesso di comprare lì dentro?» Ho risposto, timida e insieme decisa e gentile come sempre. «Sì, signore, questa è una farmacia». «Capito», ha detto lui, laconico e diffidente, e se n'è andato. «Io non so essere tagliente. So esserlo in una conversazione tra persone di spirito, ma sono del tutto indifesa di fronte alla gentaglia di strada, tanto per parlare senza mezzi termini. Allora divento timida e triste e mi stupisco che tra esseri umani ci si possa comportare così, ma una risposta ben forte e tagliente, sia pure nei limiti del lecito, non mi viene. Quell'uomo non aveva il diritto di interrogarmi. uno di quegli idealisti che a suo tempo coopereranno a epurare la società dagli elementi ebraici. A ognuno il suo piacere in questa vita. Ma questi piccoli attriti col mondo esterno devono pure essere digeriti. Con ciò non provo il minimo interesse a fare la figura di una persona coraggiosa di fronte a questo o quel persecutore. E dunque non mi sforzerò mai in questo senso. Possono benissimo accorgersi che sono triste e del tutto indifesa nei loro confronti. Non ho nessun bisogno di fare una figura coraggiosa. Ho la mia forza interiore e questo mi basta. Il resto è irrilevante. Le 8:30 di mattina. Quando è entrato in camera mia, aveva un pigiama celeste e un'espressione timida in viso. Gli stavano così bene. Si è seduto sul bordo del letto a parlare per un po'. Ora se n'è andato. Passerà un'ora prima che sia pronto. Lavarsi, far ginnastica, leggere. Leggere. Lo posso fare insieme a lui. Quando ha detto «adesso ho ancora bisogno di un'ora», mi ha preso di colpo una gran tristezza. Quasi dovessimo separarci per sempre. Ah, lasciar completamente libera una persona che si ama. Lasciarla del tutto libera di fare la sua vita è la cosa più difficile che ci sia. La sto imparando per lui. Fuori un vero tripudio di voci di uccelli. Un tetto piano coperto di ghiaino e un piccione davanti alla mia finestra spalancata. Il sole già al mattino presto. Lui tossiva poco fa e ha sempre ancora la testa che gli duole nello stesso punto. Ha avuto un pessimo sogno, l'ha chiamato un sogno premonitore. Ero sveglia alle 5:30. Alle 7:30 mi sono completamente spogliata e lavata. Ho fatto un po' di ginnastica e poi sono tornata sotto le coperte. Poco dopo è entrato lui, esitante e timido nel suo pigiama celeste. Tossiva. Ha detto «sono esaurito». Stamattina andiamo dal medico invece di fare quel lungo giro. E oggi voglio ritirarmi e riposare nel mio silenzio, nello spazio del mio silenzio interiore, a cui chiedo ospitalità per un giorno intero. Forse riuscirò a riposarmi così. Corpo e mente sono molto stanchi e funzionano male, ma oggi non ho da lavorare e credo che andrà bene. C'è sole su quel tetto e un tripudio di voci di uccelli. Questa camera è già così raccolta intorno a me che ci potrei pregare. Abbiamo avuto entrambi una vita molto libera, lui con le donne, io con gli uomini. E ciò nonostante lui era seduto col suo pigiama celeste sul bordo del mio letto. Per un momento la sua testa era abbandonata fra le mie braccia nude. Abbiamo parlato un pochino, poi era via di nuovo. Trovo che è una cosa molto commovente. Nell'uno nell'altro abbiamo il cattivo gusto di abusare di una situazione troppo facile. Alle nostre spalle c'è una vita libera e sregolata di amori trascorsi in molti letti altrui, eppure siamo ancora capaci di essere timidi ogni volta. È molto bello che sia così e me ne rallegro. Ora mi metto la mia vestaglia colorata e scendo di sotto per leggere la Bibbia insieme con lui. Passerò tutto il giorno in un angolino di quella gran sala silenziosa che ho dentro di me. Oggi non devo lavorare, non ho compiti casalinghi e non ho da far lezione. La mia colazione è pronta in un cartoccio e Adri ci porterà il nostro pranzo caldo. Così, stanca, posso restar seduta nell'angolino del mio silenzio, accoccolata come un Buddha e anche col suo sorriso, interiormente, si intende. Le 10:15. Erano un buon nutrimento a digiuno, quei pochi salmi che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Abbiamo vissuto insieme il principio di un giorno ed è stata una cosa molto bella, una carica di energia. E di nuovo quella stupida fitta al cuore quando ha detto che andava a far ginnastica e a vestirsi, come se dovendo tornare di sopra io mi sentissi abbandonata e sola al mondo. Una volta ho scritto «Vorrei poter condividere il mio spazzolino da denti con lui». Quanto bisogno di essere vicina a una persona fin nei suoi più piccoli gesti quotidiani. Però questa distanza fa bene. ci si ritrova poi sempre. E tra poco verrà su a chiamarmi per far colazione alla sua tavola rotonda, vicino al geranio, che si dissangua ogni giorno di più. Ah, oh, quegli uccelli e quel sole sul ghiaino del tetto. Ho nell'anima tanta calma e dolcezza e un senso di appagamento che riposa in Dio. Che forza primordiale vien fuori dall'Antico Testamento e che radice popolare anche. Magnifiche figure, forti e poetiche, vivono in quelle pagine. Un libro davvero avvincente, aspro e tenero, ingenuo e saggio. Interessante non solo per ciò che dice, ma anche perché permette di conoscere chi lo dice.